Adesso sto detto, stavo mettendo a posto il l'armadio lì. Ho trovato sta busta, e te qua dentro cosa c'è? Pesciughe. Avevo paura anche di prenderlo, mi ho voluto mettere i guanti in quanto è nuovo e bello. L'hai vista la foto, tutto blu? No, funziona. Ehi, alla grande. KK. Ehi, ehi. No, c'è il microfono nuovo, nuovo, della Proxel. Fatto... Me l'hanno mandato proprio con la radio, capito? Perché c'ha la modulazione molto... molto bella. Ascolta, l'aeroplano si sente, sì? Ehi, ehi, no, vabbè, tutto spento qua. Così lo attacchi, attacchiamo questo, lo facciamo andare. No, vabbè, comunque le regolazioni già me le ricordavo. Sono a metà michigine, a metà, neanche a metà, ecco. La potenza è al massimo. 30 watt sta dando, K. Ehi, ehi. Entro, quando ce l'ho, no. Mi pare l'ho usato una volta con Massimiliano a fare qualche prova. E poi l'avevo messo dentro l'armadio, perché tra l'altro non c'è manco un posto, infatti appoggiato sopra l'amplificatore dove ti ho mandato la foto. Perché altro posto non ce n'è, vale. Va bene, che va bene, cambio. Non lo so, vale, perché io sto accendendo poco, capito? Sto accendendo molto poco, tanto non c'ho tempo, e poi ho visto che traffico ce n'è poco, mi tengono aggiornato, quindi non è che mi preoccupo più di tanto. Adesso mi sono entrato giusto per provare questo 3009. E poi niente, tanto. Sono già le 7:15, 7:30 me ne esco col cane, anche prima. E poi si cena e tira campa. Capito mi hai? Akata, comente, kerete! Ehi, al nuovo usano la C, capito? Al nuovo me lo dicevano sempre che... Sempre questa parola erano i colleghi di nuovo. Ogni cosa che le dicevo mi dicevano così, ma non ha male, questi guasti, e quindi me la sono memorizzata, e ogni tanto la dico a te, almeno te la memorizzi, no? Quando Giuseppe ti fa tirare glielo dici, oh Giuseppe, accata come te querete, no, già è facile. Che vuol dire praticamente in inglese fai quello che ti piace. Capito? KK, vedi, non entra nessuno, tutti morti, tutti PMR, so. Vabbè, piano piano, vedrai che già d'inverno non si è sentito un cane. Adesso inizia il caldo e se ne sente ancora di meno. Vuol dire che... terremo tutto spento e fanno tutti accata come te chiedete. Sì, se non c'è QRM sì, ma com'è mi arriva molto bene. Ma com'è mi arriva bene, Borore, Biroli, Abbasanta, anche quell'altro paese che c'è vicino, non mi ricordo. Oristano mi arriva, però se non c'è QRM. Cagliari non penso, devono avere un po' di potenza. Mi ricordo tanti anni fa c'era uno che parlava da Villa Cidro e arrivava bene, però poi sai, le cose sono cambiate, no? Non penso ci sia più quell'entusiasmo di fare queste prove, però io alcuni camionisti tipo Gigi che aveva un bellissimo impianto sulla barra da Macomè bene sul 45, capito? Poi ce n'è Albino da Borre che arriva bene, quelli più lontani sono Pinuccetto, Budusò, tutta quella zona non ci sono problemi. Cagliari è tantissimi anni che non sento niente. Un giorno c'era proprio QRM alle 00, a 4.40 ho sentito uno che era alle porte di Oristano, in città, proprio alle porte, all'ingresso di Oristano, stava trasmettendo, stava parlando con un camionista, e arrivava, segnale 2, ma arrivava. QRM, cambio! Aspetta, stavo... cambiato radio, già lo sai io. Ecco, era giusto per fartelo sentire. Marco, non lo so perché, ti ripeto, sono assente, quindi non so chi sta entrando, chi non sta entrando, non lo so, io sai cosa sto facendo qui, mi metto su dall'altra parte, rientro ormai a quest'ora, faccio due cosette, però per il resto non c'ho né voglia né tempo, diciamo, dai. Quindi non lo so, se sta entrando, se c'è qualcuno, non lo saccio. A rompere le scatole, ho detto, a rompere le scatole, capito? Vengo a prenderti io, ti riporto io, se no te la frutto a vaccomimi. E poi già lo sai, accatta come te querete. Quello è importante, vale, io perché te l'ho detto, perché ti ho sentito molto, molto giù. Quindi te l'ho detto, cioè esci, perché se non esci è peggio. Faceva anche a me. Il mal di schiena, poi ho scoperto, sono andato all'ortopedico, metto la cervello, ho fatto l'altro, ho fatto tutto. Mi ha dato la cura, quello che ti ho detto, e grazie a Dio già ho un bel po' di tempo che non mi viene. Ogni tanto sento qualche fitta, ma inizialmente sembrava un handicappato anche guidando, te l'ho detto. Guidavo di fianco perché non potevo appoggiare il sedere al sedile di quanto mi faceva male la schiena. Però se non cammini, non esci e stai a casa è anche peggio, capito? Quindi per quello te l'ho detto. Gappa, già va bene. E boh, non ho più sentito nessuno. Vabbè, Stefano ha ripreso il QRL, quindi è sempre Olbia. Sentiamo per telefono qualche messaggio, eccetera. Gli altri, ti ripeto, non li ho più sentiti, però no, non c'è problema. E io adesso già ne ho di tempo, vale, quindi quando vuoi scendere lo sai che non c'è nel problema. Io ne faccio un giro. Capito? Andiamo a trovare la... anzi, non c'è più, mi sembra l'hanno sfrattata la ragazza di Marco a Plattamona, Marco, a trovare lei possiamo andare. No, non può tornare. Guarda, hanno fatto vedere un video su Antenna 1 da schifo. Proprio in diretta l'hanno fatto vedere. Come hanno tolto il telone era tutto pieno di immondezza. Minimo ne sono usciti 4-5 topi, c'era il vigile del fuoco, topi, stava convivendo con i topi, capito? Perché il topo purtroppo è un animale che va dove c'è la mondetta, dove c'è sporcizia, dove c'è pingo e dove c'è da mangiare, capito? Siccome è un animale schifoso che sta in mezzo alla mondetta, ha avuto proprio il letto. Questa dormiva insieme ai topi, stava in mezzo ai topi, hanno tutto stracciato, tutto pulito, c'era il camion alla mondetta, ha portato via tutto, c'erano i turbini, i vigili del fuoco, i vigili urbani, capito? Hanno pulito tutto e penso che se si presenta lì questa volta ce la mettono dentro, perché quella è una violazione, è violazione di suolo pubblico, quello è suolo pubblico, non puoi stare lì. Capito? Non puoi stare, quindi sicuramente l'hanno diffidata, ma è una persona che vale meno di zero, capito? Meno di zero. Gli hanno anche offerto di andare a gratis in una casa di riposo, ha detto che lei non le piace vivere da sola, e vivi in mezzo alla mondezza, in mezzo allo bingo, lascia perdere. Ma certi tupi che sono saltati li hanno anche sfocati con la telecamera per non farli vedere. Ma si vedeva quanto erano grandi, una cosa allucinante, vale, da schifo. Sì, vabbè, Marco ce ne va a fare una passeggiata e così. L'ha visto una due volte e ha iniziato anche a chiedere i soldi, figurati, infatti ha detto non ho più niente, perché stava diventando una cosa obbligatoria, capito? Portami questo, portami quell'altro, ma a volte si fa per solidarietà, no? Alla fine però capisci che non funziona così, e allora niente, vai di una casina. Sì, era pieno di mondezza, pieno di mondezza. Guarda, c'era un vigile fuoco e ci ha messo la mano in testa, non ti dico altro, perché faceva anche bisogni lì, capito, all'interno, per non volerla nessuno, faceva anche bisogni, quindi tu immaginati in che modo viveva questa cristiana, proprio da schifo, una cosa così, mamma mia, non ci voglio pensare, e in più conviveva con i topi. Con i tupi, c'erano i tupi proprio dentro le buste della mondezza, che si avevano già fatto il nido, l'habitat naturale, capito? E lì non gliene fregava niente, e quindi stava lì. Assolutamente, hanno pulito tutto, hanno fatto vedere tutto, l'antenna 1, c'era un paio di settimane fa, un 15 giorni fa, hanno fatto vedere proprio il servizio, e c'era anche tutto il commento, proprio sfrattata, eccetera, eccetera, nome, cognome, e tutto, poi hanno parlato anche del suo passato, di quello che ha avuto, di tutto quello che ha combinato, eccetera. E vabbè, qualcosa è stata fatta comunque, e credo, spero che non ci metta più piede lì, perché era veramente una cosa allucinante da vedere per chi passava lì, va lì. No, hanno fatto vedere, tra l'altro il servizio, c'era il vigile urbano, il vigile fuoco, hanno pulito tutto, disinfettato tutto, quindi penso che lì non ci metta più piede. No, ma guarda che quei clochard che fanno vedere a volte in TV, che dormono alla stazione, hanno solo un punto di appoggio per dormire, capito? Un punto d'appoggio per dormire, niente. Però non so, pinghinosi come questa, non lasciano mondezza, non lasciano niente, anche perché sono molti sono seguiti la notte dalla Croce Rossa, dai volontari che vanno e l'hanno un patto caldo, eccetera. Cazzo, questa non meritava neanche il mangiare del cane, capito? Perché è cattiva, ti prendeva parolacce, assolutamente, proprio nata in mezzo alla mondezza, invece. Mentre quelle persone lì sono abbastanza seguite e non lasciano niente, vanno lì alla stazione, vanno nei posti dove si è un po' riparato, dormono, poi la mattina ritirano tutto e se ne vanno e cercano un altro posto. Questa l'ha fatto proprio pianta definitiva lì, capite? Se l'ha fatto la casetta con questi teloni che non te ne dico cosa tutto c'era attaccato. Di sporcizia, dico, uno schifo. Sto dicendo che c'era il cameraman di Antenna 1 che si vedeva dalla faccia facendo le riprese che non voleva visto, vale, non voleva visto. Non lo so, vale, sicuramente ha meta da stabilire o da cercare, però ti posso garantire che lì no, non credo che le diano modo di poter fare nuovamente rifugio, perché è bazzicata molto, controllata molto dai vigili urbani dopo questi eventi, anche perché da poco hanno nuovamente aperto lì alcuni caseggiati che sono dismessi, e quindi c'è un po' più di controllo, c'era anche scritto nel giornale, perciò penso che lì non ci metta più piede. In ogni caso l'avrei legata le avrei messo una pietra legata ai piedi, capito? E buttata in alto mare, perché intanto quella persona lì, no, ha detto vale meno di niente vale, è una che pensa a distruggere, a creare problemi, non ad aiutare la comunità, perché molti, ti ripeto, fanno valere molti servizi, soprattutto alle Iene, a Striscia, eccetera, di questi crociati che dormono sotto le stazioni, nelle cose, però non sono innocui, capito? Sono innocui, stanno lì a dormire proprio per avere un riparo, soprattutto d'inverno. L'estate anche una panchina per loro è un letto, però non creano i problemi che ha creato questa, ma ti dico una cosa vergognosa, fa carità, pucci pucci. Eia, ma è così, vale. No, qua Sassari non... qualcuno però non ho visto dormitori particolari o cose, qualcuno si vede ogni tanto, però vabbè, io non giro molto nelle zone un po' particolari. Il dottore se non lo so, perché anni che non giro, io non scendo, faccio una passeggiata in piazza e basta, capito? Però già ce n'è, gente che ha bisogno ce n'è tanta, vale, ce n'è tanta. Qualcuno si fa aiutare e qualcuno no, capito? Tutto lì. Già va bene. Dimmi, modulazione è sempre la stessa, questo è il 140, 440 è spento, mi sa che dopo lo accendo, faccio un paio di passaggi anche con quello. Questo è il 14, va bene, sì. Quindi questa sta dicendo che è più forte, questo è il 440, topper acceso. Sempre 40 watt, 30 watt, c'è bisogno di anche a freddo. Questa è più forte quindi dell'altra. KK, ma non pensavo che c'era tutta questa differenza. Vabbè, la televisione nel salone. Qua c'è il 140 acceso, a volume basso, e basta. È una delle VU, e boh, stavo ascoltando a loro in PMR, e boh. E vabbè, 440 è così, non c'è niente da fare. Già va bene, ok, no, vanno bene tutte queste rare, e questa è stata un patrimonio l'anno scorso l'ho visionato il 430, due anni fa questa, e quindi insomma, oramai ce li ho, me le tengo, come ti ho detto, il resto è tutto da mettere dentro gli armadi, intanto non c'è più niente, vale, assolutamente. E vabbè, io questa ce l'ho sempre a 20 watt, 40 modulati, però l'importante è da 20 watt, chiaro che se uno mette un lineare da 100 il segnale lo fa salire, ma ti ricordo che questa mi passa anche i 100, posso metterla a 100 di portante, modulati ne da 150. Capito, se l'avevo fatta fare appositamente giusto per me, e boh, infatti non l'ho mai data, questa c'era un bel po' di anni, non l'ho mai data, mi aveva creato il problema che creano tutti i 440, l'avevo mandata da Bianconi, adesso Bianconi ha chiuso, fortunatamente le mie radici sono a posto, ne aveva fatto due, una due anni fa e una l'anno scorso, nel 2017, proprio l'avevo mandata a giugno mi sembra, o a luglio, no forse a luglio dell'anno scorso, e me la sono ritirata a settembre, fate il conto, e me l'ha mandata a settembre, perché doveva finire un sacco di cose, ero detto non ho problemi, io già ce l'ho l'altra radio, e quindi me l'ha fatto anche quella, ma l'altra, il 430 non aveva il difetto che aveva questa qua, aveva più dei falsi contatti, delle cosettine da riprendere, da sostituire, questa proprio è stata revisionata, mi pare ha cambiato 10 o 15 condensatori, resistenze, di tutto di più, capito? Mentre quella là aveva un po' di falsi contatti che già Fabrizio mi aveva detto che prima o poi mi lasciava a piedi, infatti così è stato, mentre modulavo mi si spegneva, dava un colpo, si riaccendeva, alla fine me l'ho mandata e me l'ha tutta ripresa, tutta sistemata, infatti avevo speso la metà di quanto ho speso col 440, perché per rimettere a posto un 440 quando partono i condensatori ci vogliono dalle 180 alle 200 euro, c'è niente da fare, c'è un lavoraccio che non ti dico, un lavoraccio, capito? E quello l'ho fatto mettere a posto, avete ripeto, poi Fabrizio mi aveva messo a posto già un paio di volte, mi aveva cambiato anche il display, quindi ho detto, la radio è a posto, è nuova, in buone condizioni, la tengo di scorta e ogni tanto la uso. Adesso ho acceso questa, quella là può rimanere anche mesi spenta, non fa i difetti. 440 ce lo tieni 2 mesi spento, lo accendi, non funziona più. Che radio strana che KK. Il 430, il 430 ce lo mangia questo. Adesso comodo, tanto sono tutti sotto il comando della T230, perché la T230 è number one. Fa da commutatore d'antenna, rosmetro, wattmetro, accordatore, quello della Kenwood. Quindi io ce li ho tutte e tre lì, cioè 3 uscite sono tutte e tre lì. Adesso ti commuto il 430, guarda la differenza che c'è di non tanto di segnale, il segnale sarà uguale, ma la radio è, si sente che è leggermente più corposa e più forte di questa. Guarda, hola, ecco qua, freddo, appena acceso, senti la differenza che c'è, non è molta, ma si sente che spinge ancora di più. A me mi dicono sempre che è più forte rispetto al 440, non lo so. Vabbè, no, comunque vanno bene tutte e tre, 140 è perché c'è lo slider, quindi non spinge come il 30 e il 40, però queste sono micidiali, ovali. Queste vanno molto molto bene. Io quindi ho iniziato a modulare proprio con il primo pivot, ok, il 430, che era appena uscito, lo comprai da Mario Notari, e l'abbinamento era 430 e MC60, e da lì poi io non sono più uscito, lo sai che io MC60 è quello per me. Molti le fa la modulazione cupa, che la fa un po' non molto bella, però io lo porto bene, ma non solo io, anche altre persone che non sto qui ad elencare lo portano abbastanza bene. Molti invece, nonostante la radio è una signora radio, un signor microfono, non riescono ad avere quel bilanciamento vocale che la radio richiede, il microfono richiede, tutto qua. Però la mia voce è questa, vale, KK. E Antonio Grotte mi diceva che io spingo di petto, ha detto spinto di vecchiari, e dicevo io, capito? E ho molti acuti, ho gli acuti e dei bassi molto bilanciati come voce, quindi riesco a portare la radio in così, ecco. Però ti ripeto, c'è altra gente anche che va benino con questo tipo di radio, molti invece non riescono a portarla, però ce n'erano quando usavano questa radio, adesso non c'è più nessuno, ma prima 5-6 avevamo questo tipo di radio, capito? Tutto qua. E andare, l'importante è che ci sentiamo, vale, poi una modulazione vale l'altra, hai visto? Esco anche con le calecca io. Sì, ti ripeto, io poi non grido, sto a 30-40 cm dal microfono. La modulazione è quella, no? Non è che cambia, capito? Ma perlomeno con tutte e tre le radio K e la modulazione, anche perché hanno bisogno di stacca e attacca comodo. Sono 3 MC60, uno su ognuno, quindi il microfono è sempre quello. Sono tutte e tre nuove, quindi le capsule sono originali, il sistema è sempre in posizione in, quindi lavora così. Vabbè, cosa devi fare? Voglia ci vuole, voglia, tempo. E comunque adesso stavo guardando il meteo per cambiare discorso e mi sembra che fine settimana l'ha dato brutto, però è ovale. No. Domani, addirittura aveva dato oggi anche pioggia, capito? Aveva dato anche oggi, pioggia, però non ha piovuto. Mentre domani dovrebbe essere pioggia. Capito? martedì così è. Martedì, precipitazione al 90%, vento 16 km all'ora, umidità 78%, e ha detto pioggia. Domani lo stesso, pioggia. Giovedì parzialmente nuvoloso, parzialmente, però pioggia non è adatto, precipitazione infatti 10% come statistica, però c'è un vento oltre i 26 km orari, quindi già un venticello. Venerdì è nuvoloso senza pioggia, e sabato pioggia, domenica sole. Capito, domenica sole. Queste sono le statistiche di internet, poi bisogna vedere se è così. No, sì, ma stai guardando quello che ho letto, io guardo meteo.it, appunto da stanotte sembra che piova, domani, però non pioggia, però domani c'è vento. Vento da Grecale al Ribeccio, e siamo intorno ai 30 km orari, ed è già un vento un pochino fastidioso. Mentre giovedì no, venerdì no, sabato di nuovo pioggia, domenica e lunedì tempo bello. Beh, due comprendimi. E comunque, oh, vale, accata come te querete, faccia quello che vuole. Se piove noi già non ci bagna, ma cazzi na frutti. E vabbè, cosa devono dire? Quando una diga non è in sicurezza, devono per forza abbassare il livello di guardia. Se partono le paratorie della diga di Formentosa, non ci rimane più nessuno lì. Hai capito? La nostra è molto meglio di quella. La diga del Birighizzo è favolosa. A circa 40 metri di paratorie in cemento armato con le saracinesche automatizzate e sensori, soprattutto quando supera il livello di guardia si aprono da sole le paratoie. Capito? Vai. Lì sono un po' ancora indietro rispetto a noi, molto molto indietro. Beh, noi abbiamo invasato alla grande. Se adesso piove anche in questi giorni, invasiamo ancora di più. Invasiamo ancora di più, siamo neanche 10 milioni di metri cubi sotto livello. Considera il fatto che eravamo quasi a zero, siamo quasi a livello buono per affrontare la stagione estiva, non abbiamo grandi difficoltà, capito? Perciò non ci dobbiamo preoccupare, è tutto sotto controllo, tutto gappa. Cazzo, le 7:30 sono già, minchia, se n'è andato, se n'è. Si è curicato di nuovo perché mi è venuto qua, ha visto che non mi sono alzato e dice sì, vado e mi curico di nuovo, adesso lo porto. Non è uscito neanche dopo pranzo, allora faccio fare una passeggiatina, fa bene anche a me, no, mi metto in vesto di nuovo, capito? No, mi sta serato, l'ho detto, ho messo un po' a posto qua l'armadio, perché poi arriva il momento che devi smontare tutto, cioè gli armadi pieni di immondezza, capito? Ho fatto una cassetta, un paio di cassette di quelle di plastica, e ho messo tutta la roba che non mi serve e l'ho portata su, perché soprattutto questo armadio dove io ce la sera radio, vale. A parte, vabbè, che c'è l'armadio, quella roba da lavoro, quella l'ho lasciata, se ne occupa mia moglie, ma i due ripiani di sopra erano tutti pieni di cave, cavetti, cavettini, pezzi di microfono, pezzi di radio, pezzi qui e pezzi là, e quindi ho messo dentro delle cassette di plastica e le ho portate sui mansarda, capito? E ho tolto la roba che, quella radio che ti ho detto, il 48 l'ho messo bene, a posto, altri strumenti, rosmetro, vattimetro, insomma, le cose che poi dovrò portare via, ma c'era un sacco di roba da buttare, e quindi però buttare non la butto, l'ho messa dentro la cassetta e l'ho portata su in mansarda, e rimane lì, poi si vedrà. Va bene, vale. Dai, allora ci abbiamo detto tutto al telefono, c'è bisogno di ripeterlo. facciamo quello che abbiamo detto, ok? Ci aggiorniamo quindi giovedì mattina. Però rimane il fatto che l'orario per andare a prenderci un caffè ce l'abbiamo già dato, ok? Ciao Pavale, altrettanto a te, dai. Va bene. Quello che dobbiamo verificare è già tutto fuori. Non ci stanno problemi, ok? Sì, vado a portare il cane, così poi mi rimetto il mio pigiamino, adesso che c'è ancora luce. Se ogni volta vado, non ti mettere a ridere, ogni volta vado a portare il cane al buio nel prato, qua c'è un coso recintato comunale, puntualmente, deve essere sempre la stessa massata di merda, al buio tutte le notti ci metto il piede nella merda, cazzo adesso esco alla luce, vediamo se ce lo metto. E io vorrei, no, già esce, l'ho portato a mezzogiorno, però di solito lo portavo sempre verso le dopo pranzo, non ne avevo voglia, lo porto adesso. E meno male che ho un cane che resiste abbastanza, no? E non rompere scatole, sennò se uno di quei cani che ti sveglia alle 6 di mattina a portarlo, Filippo, se lo svegli alle 6 di mattina ti morsica, diceva cosa vuoi, ma otta vi, lui prima 9:30-10, poverino, no? Cioè, ti avvisa lui, infatti io esco, vado a prendere il caffè, le sigarette, poi ritorno, verso le 9:15, e lui è già pronto, capito? È già pronto. Va bene, dai, ci aggiorniamo, Vale, grazie alle due chiacchiere, grazie a tutti quelli che sono anche in ascolto. Alle prossime, non vi azzuffate per entrare perché stiamo chiudendo. Ciao a tutti! Ciao Vale! Ciao Flavio, ciao a tutti! Ciao Gianfra, ciao, lo sapevo che salutavi. Ciao Vale, ci aggiorniamo per giovedì, dai. Ciao Gianfra, che stanno a portare al cane. Al limite a dopo, ciao. Ciao, ero solo di passaggio. Comunque, era un ascolto, ma di passaggio. Ciao a tutti, buona serata. Ciao.